ogni proletario paga il conto di questo macello, fanno tutti finta di aver fatto qualcosa quelli che governavano e che hanno governato questo paese per 150 anni, per cui nessuno di loro ha responsabilità. Invece la memoria come esercizio collettivo serve a ricordare le responsabilità delle stragi di questo paese, la responsabilità della repressione di questo paese. La vogliono far dimenticare perché con la repressione ricominciano, non hanno mai smesso. Il motivo per cui molto spesso, uno dei motivi per cui ci interroghiamo perché in Italia, per quanto la macelleria sociale in atto non sia tanto diversa da quella che succede in Spagna, in Francia, in Grecia, non ci siano le piazze piene di persone che si ribellano, una delle risposte è data anche dal fatto, non è l'unica ovviamente, che in questo paese per una generazione ha avuto 10.000 detenuti politici, 10.000 persone che sono state arrestate per aver fatto delle lotte, a volte in maniera violenta, a volte in maniera comunque sicuramente conflittuale, di emancipazione, perché è alla radice di tutte queste, la storia di questo paese ce lo racconta, c'è Piazza Fontana, cioè c'è una strage organizzata dallo Stato per reprimere uno dei più alti momenti di conflittualità, di lotta che questo paese ha conosciuto, l'autunno caldo del 69 e il 1968 come momento di rottura epocale di un paese che aveva una cappa di piombo e che era impossibilitato a trasformare, ha avuto una possibilità di trasformazione che è stata bloccata con una strage, e con una criminalizzazione fatta ai danni degli anarchici, ieri come oggi, perché anche oggi abbiamo compagni che continuamente vengono arrestati, e il più delle volte anche in questo caso con pretesti risibili, ma magari ne sviluppiamo il ragionamento nel corso dell'intervento. Il Piazza Fontana ha rappresentato il fatto che una generazione dovesse fare i conti con la possibilità di essere, senza aver fatto nulla di fattivo, essere schiaffata in galera per anni, come è successo ai nostri compagni, con accuse infamanti e gravissime, tali quelle di una strage, che non è un atto rivoluzionario, è un atto fascista, perché in Italia le stragi le hanno sempre fatte soltanto i fascisti e i servizi segreti, comprese quelle di mafia ultime, per cui adesso mettono il veto sulla possibilità di approfondire, ma del resto è impensabile che ci sia una verità giudiziaria sulle stragi ordite dallo Stato, visto che la magistratura è sempre espressione dello stesso Stato. Dicevo, questo, i compagni l'hanno pagata salata, l'hanno pagata personalmente, si sono fatti, in alcuni casi sono stati assassinati, come nel caso di Pino Pinelli, come nel caso di Francesco Saltarelli, come nel caso dei cinque anarchici del Sud che facevano un'operazione contro informazione e sono stati ammazzati sull'autostrada. In altri casi l'hanno pagata con anni di galera, come nel caso di Roberto Gargamelli, che è qui, che racconterà la sua testimonianza, come nel caso degli altri compagni che saranno presenti stasera all'incontro che facciamo nello spazio anarchico 19 luglio alla Garbatella, in via Rocco da Cesinale 18, con inizio dalle 8:30 di questa sera. Ci saranno moltissimi dei compagni che furono all'epoca arrestati, i compagni del Circolo 22 Marzo, che era il gruppo in cui militava Pietro Valpreda, che è stato l'anarchico accusato di aver messo la bomba a Piazza Fontana. In quella giornata ci furono diverse bombe, gli altri anarchici arrestati per le altre bombe militavano tutti nel gruppo 22 Marzo. I compagni saranno presenti, sarà presente anche Pasquale Valitutti, detto Lello, il compagno che era presente in questura quando venne assassinato Pino Pinelli, l'unico testimone affidabile, perché gli altri erano poliziotti che si sono contraddetti tra loro, e che erano presenti e che sarebbero stati altrimenti accusati di omicidio, perché di omicidio si è trattato, con una magistratura anche in quel caso compiacente e complice, che si è inventato il malore attivo, l'unico caso in tutta la storia sanitaria dell'umanità in cui un malato si sente male, invece di accasciarsi al suolo si alza, spintoni i poliziotti e si tuffa dalla finestra senza emettere un grido, senza nulla, durante un interrogatorio poliziesco. Ecco, questo tipo di situazioni sono le situazioni che fanno il paio con le situazioni che viviamo oggi. Il motivo della memoria è che in questo tipo di tentativo orwelliano di riscrittura della storia che viene operato, oggi assistiamo a altri passaggi, assistiamo i passaggi per cui gli anarchici vengono nuovamente accusati da film e da libri, dal film di Tullio Giordana, dal libro di Cucchiarelli, di essere stati gli autori di quella strage. Serve ovviamente infamare la memoria, cercare di riscrivere la storia, serve a giustificare la repressione dell'oggi, e quello è uno dei motivi per cui di questa memoria va tenuta viva nei compagni che non la conoscono, e va tenuta viva facendola raccontare dai protagonisti, perché probabilmente così si può evitare che quella che è stata una tragedia della nostra storia si ripeta, anche se in forma di farsa e anche se in forma di riproposizione della storia attraverso questo martellamento mediatico per cui gli anarchici sono tutti colpevoli, assassini, e l'unica via per la trasformazione è il dare retta a Monti e preoccuparsi dello spread, perché alla fine poi il tentativo di riproposizione che c'è è quello di far finta che non sia possibile trasformare la società, che non ci sia un'alternativa possibile al massacro sociale che stiamo vivendo tutti i giorni. Per questo è importante riproporre, ragionare su quello che è successo ieri, proprio per cercare di capire l'oggi e di trasformare il domani, come recita il nostro manifesto. Ricordo l'appuntamento di questa sera alle 8:30 a Via Rocco da Cesinale 18 allo Spazio Anarchico 19 luglio, in un'assemblea dibattito organizzata dal gruppo anarchico Carlo Cafiero e dell'associazione Pietro Valpreda. Come racconto, come testimonianza storia di quei giorni, di quel 12 dicembre del 69, do la parola a Roberto Gargamelli, che per quella strage fu arrestato e si fece anni di galera. Un saluto a tutti i compagni all'ascolto e ringrazio anch'io la radio, come tutti gli anni oramai facciamo. Tanto per ricordare, oggi sono 43 anni appunto, la macchinazione organizzata contro di noi dallo Stato essenzialmente parte da qualche mese prima del 12 dicembre del 69. Noi eravamo il gruppo anarchico 22 marzo, se qualcuno ricorda. Era un gruppo nato da pochissimo, fra l'altro, diciamo che c'era stata una richiesta da parte di tanti compagni, noi per primi eravamo studenti medi all'epoca, io avevo 19 anni e da 17 mi davo da fare, insomma facevo cose all'interno del movimento studentesco, e da poco avevo conosciuto il movimento anarchico, avevo conosciuto la FAI, avevo conosciuto i compagni che propugnavano un'idea che mi è sembrata immediatamente, a me, a Enrico Di Cola e a tutti gli altri compagni che con me frequentavano l'istituto tecnico all'epoca, un'idea meravigliosa, e tale è rimasta. Noi nascemmo come gruppo diciamo circa un mese prima della strage, venne fatta una ci proposero, cioè, un articolo sul Ciao 2001, che era un giornale che all'epoca si occupava di questioni giovanili, e sul quale era uscito qualche tempo, circa due settimane prima del novembre 69, un articolo si parlava di uno dei componenti del nostro gruppo come di un fascista, cosa poi risultata vera purtroppo nel proseguo, che Mario Merlino, che aveva fondato un gruppo 22 marzo, questo in caratteri romani, circa un anno prima, e quindi lo metteva nel novero, ci metteva tutti nel novero del vecchio gruppo fascista. E ci proponemmo noi un articolo di smentita e ci venne accolto, e facemmo questa intervista in cui davamo le nostre e mettevamo in mostra praticamente il nostro gruppo, le nostre finalità e tutto quanto. Una premessa: che questo giornale è stato uno dei motivi, delle piccole tessere organizzate dai servizi di fatto per creare appunto il gruppo prescelto, al fine di utilizzarlo come capro espiatorio poi per quello che è stata la strage di Piazza Fontana. Noi siamo stati prescelti da molto prima, tanti piccoli tasselli sono poi andati al loro posto quando è esploso il caso, quando siamo stati arrestati, quando abbiamo cominciato gli anni di galera. E se il primo fra tutti una rissa organizzata a Trastevere dalla polizia stessa, in cui venimmo arrestati, venimmo fotografati, portati in galera, ci siamo fatti 3 giorni di carcere Regina Coeli, e fotografati perché poi quelle foto sono servite, sono state quelle sbattute in prima pagina nel corso degli anni successivi. E uno degli altri, voglio ricordare un'altra persona, un personaggio importantissimo all'interno del gruppo, un poliziotto infiltrato. Il poliziotto infiltrato che ai fini dell'inchiesta poi ha avuto una voce proprio quasi nulla, e in quanto poi non poteva dire assolutamente, noi non facevamo, chiaramente non mettevamo bombe, non facevamo quel tipo di attività politica che ci volevano assegnare a tutti i costi. Quindi è stata soltanto il personaggio, la figura di questa spia, Salvatore Ippoliti, poliziotto infiltrato, era soltanto ai fini della creazione del controllo, quindi interno di questo gruppo, della creazione appunto della nostra immagine pubblica, che sarebbe stata quella dei mostri. Pietro Valpreda viene arrestato a Milano, c'è il famoso confronto con il tassista Cornelio Rolandi, che all'inizio lo riconosce solo grazie a delle foto che gli erano state mostrate prima, e dietro suggerimento della polizia di Milano, del questore di Milano di allora, che gli promise, gli fece balenare e poi effettivamente ottenne la taglia dei 50 milioni famosi. E per quanto riguarda me, invece, a Roma tentarono lo stesso. Io sarei dovuto essere il mostro di Roma, perché mio padre lavorava alla Banca Nazionale del Lavoro, dove misero una delle bombe che fece 14 feriti, e addirittura prepararono un test allo stesso livello di quello dei Rolandi, che però, nonostante vari tentativi di accreditarlo a tutti i costi, non mi riconobbe durante il confronto, quindi gli crollò questa. Quindi una dei tasselli, delle parti importanti su cui puntavano, venne meno, perché io, Pietro Valpreda, doveva essere il mostro di Milano, della bomba di Milano, io dovevo essere il mostro di Roma, avrebbero chiuso il cerchio e buttato la chiave praticamente nel carcere dove stavamo. Non solo, tentarono ancora un'altra volta con un altro teste, che qualche mese dopo si presentò dal giudice dicendo di avermi visto e riconosciuto, sempre all'interno della banca. Venne fatto il confronto un'altra volta, questa volta si parla di giugno-luglio del 70, io già ero in galera da qualche mese, da 7 mesi, 7 mesi e mezzo per la precisione, e questa persona ancora una volta non mi riconobbe. Io penso perché sotto, chiaramente dietro l'influsso della nascente, dopo il libro La strage di Stato, che era uscito in quei giorni, e sotto l'influsso del nascente movimento d'opinione che si stava creando, che, grazie ai compagni fuori, grazie a tutta a una parte della stampa che cominciava ad aprire gli occhi su quello che era realmente accaduto il 12 dicembre, su quello che era stata quella strage, aveva significato soprattutto per il momento storico che vivevamo. Basti ricordare, insomma, il 69 è stato l'anno veramente di c'erano, io ricordo, era un anno meraviglioso, è stato per noi ragazzi, eravamo giovanissimi, perché c'era attività a tutti i livelli, c'erano impegni su tutti i fronti, nella scuola c'erano occupazioni, c'era un fermento in tutta Italia, addirittura nei paesi più piccoli dell'Italia c'erano occupazioni delle scuole, c'erano incontri con gli operai, incontri nelle fabbriche, a Roma noi facevamo lavoro anche fra l'altro anche tra i compagni della FATME, che all'epoca ebbero bloccarono definitivamente la fabbrica per circa 2 mesi, ci fu un'occupazione grossa e noi davamo una mano per quello che potevamo. E quindi per quel periodo è stato quello che ricordo e che mi rimane nell'anima veramente come uno dei più belli del mondo, proprio. Poi basta ricordare che è stato il 69, il 68, il 69 sono stati gli anni a livello mondiale, non solo nazionale, non solo dell'Italia, ma a livello mondiale sono stati gli anni che sono della svolta veramente, della ripresa di coscienza da parte di tutti, dei giovani soprattutto, ma anche del mondo dei lavoratori, della gente del mondo del lavoro, che facevano e comprendevano finalmente il tipo di rapporto che dovevano avere, che era essenzialmente doveva essere conflittuale, perché era una situazione di sfruttamento assoluto, ma a tutti i livelli, a livello culturale nella scuola, a livello del lavoro, a livello di in tutti i settori, in tutti gli ambienti del lavoro c'era una presa veramente di coscienza del significato di quello che significa veramente essere sfruttati sui posti, e quindi scendere in piazza e quindi occupare i posti di lavoro e quindi farsi carico di quello che era un impegno enorme, grosso, un impegno che infatti il potere all'epoca tentò in tutti i modi di bloccare. Uno dei momenti, basta ricordare che il 69 è stato veramente l'anno delle bombe, perché ci sono stati circa 160 attentati in un anno, e non erano soltanto piccoli attentati, e quasi tutti nel corso degli anni poi riconosciuti come attentati di destra, bombe fasciste e riconosciute come tali dopo anni, purtroppo dopo anni, perché quelle servivano soltanto a creare la strategia, quella che poi si è definita la strategia della tensione, quella strategia che ha creato la paura all'interno della gente comune, della gente che seguiva, che leggeva ogni giorno sui giornali bomba di qua, cosa di qua, e poi la paura del diverso, la paura della sinistra, dei compagni, e puntare il dito contro gli anarchici in particolare, perché venivano sempre additati come i dinamitardi, storicamente sempre messi e visti in quell'ottica. Torniamo ai giorni nostri. Ai giorni nostri, questa è quello che sta accadendo ancora. Appunto, io avevo iniziato dicendo è ancora ieri, è ancora come il 69, perché sta risuccedendo esattamente la stessa cosa. Qualsiasi forma di conflittualità da parte dei compagni, di gente che scendono in piazza, che vengono massacrati totalmente, viene allo stesso modo, alla stessa maniera. Parliamo dei Notav, parliamo dei ragazzi, degli studenti medi che scendono in piazza attualmente, parliamo di tutti quelli che anche gli operai stessi della Mirafiori, della Fiat, eccetera. Tutto quello che accade in questi giorni è quasi una fotocopia di quello che accadeva all'epoca. E voglio ricordare soprattutto oggi, che è il 12 dicembre, il compagno Pietro Valpreda, morto nel 2002 per una malattia, e che è stato il mio compagno per tanti anni, e abbiamo fatto la galera insieme, gli ultimi mesi siamo stati insieme. È un ricordo pesante, la dolcezza di Pietro è morto un grande compagno, tutto qui. E poi ricordare soprattutto Pinelli, l'assassinio di Pinelli, come ricordava poco fa Fricche, è stato veramente la svolta di quella operazione poliziesca e statale ordita contro di noi, contro i nostri compagni, contro di noi personalmente, ma contro tutto il movimento. E Pinelli, che viene buttato da una finestra nel silenzio più assoluto, e c'è Lello che potrà parlarne adesso diffusamente, nel silenzio più assoluto, dove in quella questura, e lo racconterà meglio Lello, si sente soltanto il tonfo del corpo in quelle ore. Lello Pasquale Valitutti, che è il compagno anarchico che era in questura nel momento dell'omicidio di Pino Pinelli, è il compagno testimone di quell'omicidio, perché la verità giudiziaria non si raggiungerà mai, ma noi la verità la sappiamo dai nostri compagni, da chi c'era, la sappiamo per ragionamenti logici e per prove fattuali, nel senso che sappiamo benissimo come è andato nel momento in cui è stato ammazzato Pino Minelli, proprio perché c'era Lello, perché c'era Lello in questura e Lello lo racconta, l'ha raccontato, l'ha ripetuto in tutte le salse come era andato, non è mai stato smentito. Eppure ancora oggi la verità giudiziaria, tra virgolette, è quella del malore attivo. Il meccanismo per cui questi omicidi si perpetuano non è un meccanismo nuovo. Quello di Pino è uno dei tanti omicidi che hanno contrassegnato la strage di Stato e la strage di attenzione. È stato però in qualche modo quello più eclatante, perché è avvenuto all'interno di una questura. Di questo magari ne parla Lello, appunto perché era lì presente. Ciao Lello. Ciao. Ciao Lello. Ciao. Senti, devo raccontare? Sì, vai. Dai, allora compagni, stiamo parlando della notte tra il 15 e il 16 dicembre, o meglio, della serata del 15 dicembre a Milano. Io ero lì nell'ufficio politico della questura, insieme alla fine eravamo rimasti io e Pino, Giuseppe Pinelli, eravamo rimasti in due. A un certo punto, venuti, hanno preso il compagno Pino e l'hanno portato per interrogarlo in una stanza vicino a quella dove ero io, più precisamente nell'ufficio di Calabresi, del commissario Finestra, nell'ufficio del suo assassino. Ero lì abbastanza inquieto, aspettavo di essere chiamato anch'io, di essere interrogato. Non era simpatico trovarsi a quell'ora di sera fermati illegalmente di notte, c'era anche molto freddo, c'era un silenzio irreale, non vedevo nessuno, non c'era nessun poliziotto apparentemente intorno a me. Dopo parecchio tempo che Pinelli veniva interrogato, ho sentito dei rumori nella stanza. Questo è successo circa un quarto d'ora prima della mezzanotte. Nella stanza vicino ho sentito dei rumori che ho descritto come un trambusto, una rissa. Si sono mossi dei mobili, delle grida concitate, parole concitate, qualcosa è successo un quarto d'ora prima. A questo punto mi sono allarmato, sono rimasto in attesa, molto vigile, molto attento a cercare di capire soprattutto quello che fosse successo e quello che sarebbe successo. Dopo un quarto d'ora circa, poi ho saputo che era mezzanotte, ho sentito un tonfo sordo, agghiacciante, strano, mi ha veramente agghiacciato quel rumore, ed era il rumore del corpo del nostro compagno, del nostro fratello, del nostro amico Giuseppe Pinelli, che si schiantava nella questura, nel cortile della questura di Milano. La cosa incredibile è che nel momento non c'è stato nessun rumore ha preceduto la caduta di questo corpo. Nessun grido, nessun movimento di sedie, cioè loro vorrebbero farsi credere che in una stanzetta piccola c'erano 6-7 persone che stavano interrogando a mezzanotte un detenuto, un fermato, e che questo si sarebbe lanciato dalla finestra senza nessuna reazione da parte loro. I rumori sono seguiti dopo. Io, da dove ero messo, vedevo benissimo il corridoio che c'era di fronte alla stanza, aveva una grossa apertura sul muro e questo corridoio era visibilissimo, completamente visibile. Mi è stato chiesto ed io ho detto no, davanti a me in quel corridoio sicuramente non è passato nessuno nel periodo antecedente la morte, l'assassinio del compagno Giuseppe Pinelli. È una testimonianza neutra, io non sapevo neanche quanto potesse poi diventare importante. Diventa importante nel momento in cui il commissario Finestra, l'assassino di Giuseppe Pinelli, dichiara, lui, non io, lui dichiara che era uscito dalla stanza di Pinelli pochi istanti prima della sua caduta e si era recato nell'ufficio del dottor Allegra. Per recarsi nell'ufficio del dottor Allegra, che era praticamente di fronte a dove stavo io, doveva passare di fronte a me. Io dovevo assolutamente vederlo e vi posso assicurare, compagni, in tutta tranquillità, in tutta serenità, che lui non è passato. Mi spiace che non sia interessante per certe persone questa testimonianza, che anzi sia scomoda e che sia anche ripetitiva, però la verità è quella. Quando dici la verità la devi ripetere, non ti puoi inventare niente di nuovo, come stanno facendo loro da tanti anni, che ne tirano fuori sempre una nuova pur di nascondere la verità. Il commissario Finestra, l'assassino di Pinelli, non è passato davanti al corridoio. Ma non solo, pochi istanti dopo la morte del compagno Pino è venuto da me. Io ho chiesto cosa è successo, lui mi ha detto si è buttato, non so perché, stavamo parlando con lui tranquillamente e lui si è buttato. Cioè mi ha detto con la sua bocca che lui era presente, che lui stava parlando con Pinelli insieme agli altri, che era lì nella stanza. Questa cosa l'ho riferita al giudice i primi di gennaio, il primo interrogatorio che mi hanno fatto, e una domanda precisa del giudice ho risposto sì. Ha parlato come se fosse stato personalmente presente nella stanza. Questi sono i fatti. Lui era nella stanza. E guardate, non era una presenza qualunque, lui era il commissario. Se togliamo Calabresi da quella stanza, noi togliamo lo Stato da quella stanza. Perché mentre dalla responsabilità, dalla sbagliataggine, dal dolo, dalla colpa di un qualunque brigadiere, è difficile risalire allo Stato, un commissario di polizia incaricato delle indagini è lo Stato in quel momento, è il tramite tra quella stanza e lo Stato. E non dimentichiamoci, compagno, un particolare sommamente importante che tentiamo, che c'è, perché sfugge spesso. Subito dopo la strage dal Ministero degli Interni è stato mandato un telegramma alla Questura di Milano chiedendo espressamente di indagare specialmente, quasi unicamente, sugli anarchici. Il telegramma è agli atti, ormai è ufficiale, non è una diceria, è una cosa reale. Evidentemente c'era un solo incaricato in quel momento a Milano di indagare sugli anarchici, era il commissario Calabresi. Nel momento in cui il Ministero dice di indagare sugli anarchici, affida la direzione delle indagini sulla strage esattamente al commissario Calabresi. Quindi un tramite più diretto con lo Stato non ci può essere. Quello che spiace è che tanta gente che queste cose le sa che sono vere, perché sono state confermate da tanti particolari, me ne posso citare solamente qualcuna, il giudice D'Ambrosio. D'Ambrosio ha fatto un'inchiesta sulla morte di Pinelli e ha interrogato quelli che erano presenti quella sera in questura, ma solo i poliziotti. Si è dimenticato dell'unico testimone non poliziotto presente in questura, per esempio, o del fatto che quando siamo stati al processo Calabresi, lotta continua, io avevo in faccia Calabresi mentre dicevo queste cose, ero in un suo tribunale, lui aveva il suo avvocato che era un penalista molto famoso, non ha osato neanche controinterrogarmi il suo difensore. Io ho finito, ho reso la mia deposizione e non mi ha controinterrogato. Calabresi ha avuto la possibilità da vivo, in un ambiente a lui favorevole, di contestare quello che dicevo. Non lo ha fatto. E poi il fatto che Calabresi, che tanto voleva arrivare alla verità, quando ha visto che il giudice ci stava arrivando, ha recusato il giudice. Ha interrotto quel processo che secondo lui avrebbe tanto voluto. Questo, e poi tanti altri fatti, cioè, solo a pensare al brigadiere Panessa che va in tribunale e dice ho cercato di afferrarlo mentre cadeva e mi è rimasta una scarpa in mano. Si sfiora il grottesco, il comico, perché quando è caduto il compagno Pinelli aveva due scarpe. Se avesse fatto uno di noi, uno dei produttori di questo tipo, l'avrebbero immediatamente arrestato per reticenza, falsa testimonianza. Hanno permesso a questi poliziotti di dire un sacco di frottole, un sacco di menzogne. Tutto il processo lo dice, chi ha assistito lo sa, non hanno fatto altro che mentire. E il solo fatto che Calabresi stesso, con la sua bocca, nella prima conferenza stampa dopo la morte di Pinelli, abbia detto era con le mani in pasta, sapeva tutto, era coinvolto, ma prese il colpevole lui e la sua compare, l'ha detto lui, versione tenuta da tutta la polizia di Milano. Pinelli si è buttato gridando ma il prete colpevole, l'anarchia è finita. Loro stessi si sono rimangiati queste infami menzogne, loro stessi hanno avuto il coraggio di fornire altre versioni. Ora non so cosa si voglia di più per capire che hanno mentito su tutta la linea. per sapere con certezza che Calabresi era in quella stanza sicuramente, per sapere che Pirelli è stato assassinato da loro, è stato buttato dalla finestra inerte. E quello che sconcerta è come queste persone che sanno tutto questo adesso si vendano, miserabili, si vendono, gente intellettuale che si vendono e dicono ma no, qualcuno forse dalla breve non c'era, ma no, chi lo sa, diventano possibilisti, si alleano allo Stato nel riscrivere la storia, nel dire menzogne. Questa è una cosa che sconcerta, non meraviglia più di tanto perché la storia è piena di gentaglia che va a finire poi inevitabilmente nella sabattoniera dove merita, ma questo meraviglia, guarda, sconcerta anche se non sorprende del tutto. È evidente la verità, per quello stasera chiederò ai compagni non di credermi, io non voglio essere creduto, non voglio un atto di fede, non siamo cristiani, non siamo religiosi, ma ai compagni di capire, è importante che i compagni capiscano quello che è successo, perché se noi riusciamo a capire quello che è successo in quei giorni tristi, in quel momento triste, noi abbiamo degli strumenti importantissimi per capire anche quello che sta succedendo oggi, perché la situazione si sta tristemente ripetendo. C'è uno Stato che vuole deprimere, c'è qualcuno che lotta in prima fila e sono sempre gli anarchici, bene, allora noi deprimiamo gli anarchici. Tanto gli anarchici possiamo attribuire quello che vogliamo, ancora non hanno capito che gli anarchici sono una grande famiglia, sono un gruppo compatto. Noi non permettiamo che i nostri fratelli, le nostre sorelle vengano repressi da questo Stato. Al di là di tutte le differenze, noi ci stringeremo intorno a loro. E noi gridiamo continuamente insieme ai ragazzi, insieme a tutti, tutte libere, tutti liberi. Non vogliamo gente in galera, siamo stanchi di subire questa repressione e soprattutto siamo stanchi che lo Stato continui a reprimere la gente, a reprimere il popolo, a reprimere i poveri. Quello che sta succedendo in questi anni è vergognoso, non è tollerabile. Noi l'abbiamo sempre detto e continuiamo a dirlo e continuiamo a gridarlo. Così come nel 68-69 avevamo la speranza, avevamo la voglia, l'entusiasmo di costruire un mondo diverso, un mondo più giusto, un mondo più bello per tutti, nessuno escluso, e ce l'hanno spenta con le bombe. Adesso vogliono spegnere la nostra rabbia, il nostro disprezzo che viviamo in faccia a loro per quello che stanno facendo, ancora con la repressione, ancora con la violenza. È una storia che si ripete, per questo capire quello che è successo è molto importante, non sentirlo, non crederlo, capirlo, fare un po' di fatica, entrare dentro e capire veramente l'orrore di tutto quello che è successo. Perché vedete, Piazza Fontana non è una prova, un mistero. Si parla dei misteri, il mistero della strada di Brescia, il mistero dell'aereo di Ustica, il mistero di qua, il mistero di là. Piazza Fontana è molto chiara. I colpevoli sono stati lo Stato e i fascisti. Pirelli è stato assassinato in una stanza in cui c'erano dei poliziotti, quindi l'hanno assassinato i poliziotti. Quindi non c'è nessun mistero, c'è solo l'arroganza, la strafottente arrogante di chi ammazza la gente e poi nega, sapendo che la sua menzogna sarà creduta da qualcuno, sapendo che prima o poi qualcuno si venderà e si metterà al servizio della sua menzogna. Hanno imparato a fare così, a mentire spudoratamente, a negare la verità più evidente. Hanno imparato in quegli anni, in quegli anni gli è andata fin troppo bene, gli è andata, in fondo ancora non si sa, però sono tormentati da quegli anni, infatti questa frase continuamente viene rivissuta, viene riscritta, viene riletta in tutti i modi, perché loro sanno benissimo che è una ferita aperta, una ferita che si potrà chiudere in un solo modo, con la giustizia e la verità. Ma noi sappiamo, compagno, sappiamo tutti nel fondo del nostro cuore che la sola forma di avere giustizia e verità sarà di fare questa benedetta rivoluzione, di buttare via questa gente e di creare veramente un mondo nuovo, un mondo di giustizia e di uguaglianza. Questa è l'unica forma vera che noi abbiamo di ricordare i nostri fratelli morti, di portarli nel cuore, lottare un po' di più anche a nome loro, perché loro questo vorrebbero da noi. E noi cercheremo di fare questo. Se potete venite stasera, compagni, vedete, sarà una cosa diversa, cercheremo di farvi partecipare, cercheremo di non creare una divisione fittizia tra chi parla e chi ascolta, cercheremo tutti insieme di capire quello che è successo per essere più forti oggi e veramente cercare di cambiare il domani. Lo dobbiamo ai nostri ragazzi, lo dobbiamo ai giovani, a quelli che ancora credono, e lo dobbiamo anche ai nostri morti che per questi stessi ideali sono morti, lo dobbiamo a tutti quelli che sono in prigione, che stanno soffrendo per questi stessi ideali. Vi ringrazio dell'attenzione e a tutti un forte abbraccio. Grazie Lello, ricordo l'appuntamento di questa sera a Via Rocco da Cesinale 18, alla Garbatella, allo Spazio Anarchico 19 luglio alle 20:30 con Lello, Roberto e tutti gli altri e molti altri compagni che sono stati i protagonisti di quella stagione di repressione e di lotta. No, Lello, noi ci siamo già sentiti chiaramente sempre per parlare di Piazza Fontana un paio d'anni fa, era già uscito il libro di Cucchiarelli, ancora no però il film, insomma, a cui si è fatto anche cenno prima, di Giordana, ecco, lì insomma il ritratto che si fa insomma dei gruppi anarchici dell'epoca è assolutamente insomma è incredibile, credo che abbia suscitato rabbia viva ancora anche soprattutto da parte tua, guarda, perché ne escono come degli sprovveduti, degli ingenui, dei falsi soprattutto, no? Cioè non solo è falso, quando che è falso nel modo più schifoso, no? Perché quando si vuole fare una cosa veramente falsa si prende un fatto che non ha nessuna importanza e lo si esalta, lo si fa diventare una cosa importante, cioè come se in quegli anni non esistessero discussioni fra compagni, si prende per esempio una discussione tra Pinelli e Valpreda, la si fa diventare un fatto importante. Erano anni in cui gli scatti tra compagni erano ogni giorno, no? Erano normali, era una cosa comune, e questo è quello che fanno. E poi il tentativo più schifoso è di rimettere gli anarchici in qualche modo corresponsabili della cosa. Ci hanno provato tanti giudici a cercare di incolpare gli anarchici. E vi assicuro che un giudice benevolo con gli anarchici è difficile trovarlo e non ci sono mai riusciti. Allora ci prova questa gente riscrivendo la storia, riscrivendo la verità, che poi questo è praticamente è un momento particolare che stanno facendo con tutto. Cioè sì, va bene, i fascisti sono i cattivi, però anche gli anarchici, quindi le destre e le sinistre, quel discorso che porta a dire ma sì, ma anche i ragazzi di Salò in fondo erano buoni ragazzi idealisti, ma sì, anche i partigiani hanno fatto le loro porterie. Cioè è quello che sta succedendo, è questo. E all'interno di questo si inserisce una descrizione anche di Piazza Fontana, fermo restando che le menzogne dette su Piazza Fontana all'inizio sono una prassi comune che non appartiene a nessuna descrizione storica particolare, il potere e la polizia per lui mente sempre, ogni volta che gli fa comodo. Va bene. Siamo arrabbiati, sì, siamo arrabbiati per quello, certo, che è successo in questi ultimi anni, molto arrabbiati. Senti Lello, se i compagni qui studio non hanno nient'altro da aggiungere, chiaramente ti salutano tutti in modo caloroso e anche noi, tutta la redazione di Onda Senti, Rossa. Sono io che saluto tutti, saluto loro e i compagni che hanno avuto la pazienza di ascoltarci, e ripetiamo, venite stasera compagni, dai, cerchiamo di iniziare un processo di comprensione attiva del passato per cercare poi veramente di capire e migliorare il futuro. Perfetto. Se avete tempo, voglio venite, mi raccomando, eh. Ciao, grazie Lello. Ciao. Ciao, ciao, grazie. Ciao. Allora, rientriamo in diretta. Beh, insomma, le parole di Pasquale, come al solito, insomma, rappresentano davvero qualcosa di importante, così come quelle di Roberto, cioè li staremmo a sentire per ore e ore, visto che insomma la loro non è una testimonianza qualunque, ma ripercorre in modo serio insomma la storia di quegli anni. E oggi effettivamente parlare di Piazza Fontana, come si diceva all'inizio, insomma, non rappresenta soltanto una questione di così testimonianza e basta, ma è doveroso perché ci permette di leggere anche gli eventi attuali, insomma, con la lente del conflitto sociale, e ci dovrebbe portare a capire quali sono le molteplici forme che lo Stato utilizza attraverso appunto anche la paura, no? Per così consolidarsi e giustificare anche poi la repressione successiva, che è quello che un po' è successo anche nei decenni successivi, e che succede ancora oggi, magari quando si è all'alba, o almeno speriamo di poterlo credere, insomma, di nuovi movimenti, di nuove insorgenze sociali. Di questi fatti, insomma, colpisce soprattutto poi come la memoria si sia divaricata, no? In modo davvero complessivo. Certamente noi non cerchiamo alcuna memoria condivisa su questi fatti, però è incredibile che un personaggio, come dire, assolutamente davvero insomma inattaccabile da un certo punto di vista, come l'anarchico Pino Pinelli, sia finito oggi nel dimenticatoio, ieri bollato invece come criminale, assassino, bombarolo, e i personaggi che invece sono stati responsabili, insomma, di quegli eventi siano stati assolutamente sdoganati, come dire, riproposti in sotto forma di nuovi eroi, possiamo dire, no? E chiaramente ci riferiamo sempre al commissario Calabresi, a tutte le operazioni mediatiche che si sono orchestrate nel corso degli ultimi anni, col beneplacito e il lancio anche da parte delle istituzioni, del Presidente della Repubblica e via di seguito. Beh, questo credo che sia un altro tema, insomma, assolutamente, no, importante. La mistificazione che c'è stata sulla vicenda di Pino, e che Lello ha brevemente ripercorso, è stata quella che poi ha fatto in qualche modo da pietra miliare su tutte le altre che si sono succedute. La vicenda della Diaz a Genova, dove sono evidenti le colpe, evidente il massacro, si è conclusa in un nulla di fatto grazie a questo. Manganelli, che è il responsabile di questa cosa, è il funzionario dello Stato più pagato in Italia, e ancora oggi lavora alla presidenza del Consiglio dei Ministri, è il poliziotto più alto in grado in Italia, è la persona che ha la responsabilità politica, morale e materiale del massacro di persone fatto fortunatamente in quella circostanza senza vittime, non a Genova, dove, come sappiamo, Carlo è stato assassinato. Ha avuto lui il compito, era lui che dirigeva quelle operazioni, lui è quello che sta ancora lì e che guadagna più di tutti in Italia. E la stessa identica cosa si è verificata sulle vicende di Aldovrandi, di Cucchi, dove anche quando qualche poliziotto si è fatto sorprendere con le mani sporche di sangue, poi alla fine è stato condannato a nulla, per un omicidio hanno dato 4 anni. Arpelliccia, che ha tirato un estintore, gli hanno dato 5, senza colpire nessuno e senza far nessun tipo di danno. Cioè questa mistificazione, questa situazione della doppia verità, della doppia legge, quella che si applica a vantaggio dello Stato e a vantaggio delle persone che per lo Stato operano con la repressione, e a svantaggio di tutti quanti, dei proletari, di chi si ribella, di chi si rivolta, degli operai dell'Alcoa massacrati a bastonate davanti al Ministero dell'Industria, degli studenti anche lì manganellati senza nessun motivo, di chiunque chiunque si ribelli viene represso pesantemente, anche quando esprime in maniera tutto sommato pacifica le proprie tendenze, le proprie voglie di ribellione, la propria protesta, e poi chi invece esercita in maniera violenta, brutale, questo tipo di repressione viene santificato, come nel caso letterale è stato proposto per la beatificazione Luigi Calabresi dalla Chiesa Cattolica. Cioè, questi personaggi qui vengono esaltati agli onori delle cronache dello Stato. E questa cosa è una cosa che ha una lunga tradizione nell'Italia unitaria, però ha raggiunto il suo apice con la storia di Pino Pinelli e di Luigi Calabresi, dove era evidente la colpevolezza materiale, cioè il fatto che alcune persone, la stanza in cui Pino è stato ammazzato era un buchetto, era una stanza piccolissima, questo non lo raccontano nessuno, e in una situazione del genere sei persone che non riescono a fermare uno che è malato, invece di accasciarsi si tuffa dalla finestra, che tra l'altro anche lì contravvenendo a qualsiasi, non grida, non dice nulla, non fa, è evidentemente una falsità. Su questa falsità tutta la polizia si richiama e si appella per poi poter fare esercitare quell'arbitrio che ben conosciamo quando scendiamo in piazza o anche quando semplicemente ci fermano per un controllo di documenti. Io sono poliziotto e te non sei un cazzo, quindi devi necessariamente subire le vessazioni che io ti faccio. Su questa cosa, ricordando che l'appuntamento di questa sera alle 20:30 allo Spazio Anarchico 19 luglio a Garbatella, via Rocco da Cesinale 18, ridò la parola a Roberto per raccontare un altro pezzo di questa storia. Beh, questa, io parto subito dicendo che abbiamo creato un'associazione, l'associazione Pietro Valpreda per la verità sulle stragi. Questa associazione appunto vuole fare quello che tentiamo di fare sempre, anche con queste trasmissioni, con gli incontri pubblici, tenta di fare memoria, di ricreare un minimo di memoria reale, vera, cioè sulla verità di quello che è accaduto in quegli anni. Perché è andata questa situazione? Per un motivo molto semplice: ci sono centinaia di migliaia di atti nel nostro processo, se ne è parlato, ogni tanto viene fuori sui media della quantità di carte che ha generato il nostro processo, e queste carte finalmente sono in digitale e siamo riusciti ad averle. Erano un po', sono assolutamente purtroppo da mettere a posto, da risistemare, è un lavoro improbo, insomma. Comunque cerchiamo di farlo il meglio possibile, perché su queste carte c'è la storia, che nonostante siano carte ufficiali, siano carte che partono da polizia, magistratura, atti, interrogatori, c'è un po' di tutto dentro. Lì dentro veramente c'è una bella fetta di verità, c'è una grossa parte di verità. Quelle stesse carte, ricordo, che sono state usate da Cucchiarelli nel suo libro Infame sulla strage, dove ci ripropone come esecutori. Pietro Valpreda lo mette addirittura come esecutore di una valigetta, però era una valigetta, una bombetta tipo Capodanno, insomma, una cosa. La bomba vera era del fascista, ma comunque lì diventa uno degli esecutori della strage. Cucchiarelli, su questa, utilizzando quelle carte a modo suo, chiaramente utilizzando solo le parti che gli interessavano, solo estrapolando dei pezzi di storia, oramai questa qui è storia della nostra vita, fra l'altro, ha travisato totalmente quello che erano quegli atti. Noi quegli atti ce li abbiamo adesso, li stiamo rimettendo insieme, ricollegando, per appunto sbatterli in faccia finalmente la verità ufficiale, se non altro quelle su quelle carte c'è una verità ufficiale, che se qualche giudice, compreso Salvini, avesse, Salvini ci è andato molto vicino, ma non è arrivato, non è riuscito fino in fondo a denunciare quello che c'è in quelle carte, cioè che è lo Stato il vero artefice di quella strage, quello che ha brigato, che ha costruito, che ha programmato quella strage, e le stragi successive, parlo di Brescia, parlo di Bologna, parlo dell'Italicus, parlo delle centinaia di momenti di strage avvenuti in questo paese, dove c'è sempre la mano dello Stato, è sempre lo Stato che costruisce queste cose, non le fanno quattro imbecilli o quattro deficienti, perché quello sono praticamente poi fascisti, sono soltanto al limite degli esecutori, dei manutenti, la manovalanza, quella che si chiama manovalanza. E quindi noi cerchiamo con questa associazione di rimettere in piedi di rifare questo percorso, di fare memoria, di costruire questa memoria, di mettere la verità su carta, in modo tale che non vengano più fuori dei personaggi come Cucchiarelli, che utilizzando a suo modo, a suo piacere, perché è solo esclusivamente a suo piacere, delle carte, estrapolando dei pezzi e addirittura utilizzando dei Mister X inesistenti, dei personaggi, e utilizzando dei personaggi squalificati come addirittura dei fascisti assolutamente, se non pazzi, dementi e poco o giù di lì, insomma, e dei pezzi di Stato, dei funzionari dei servizi che addirittura gli unici, fra l'altro, condannati nel nostro processo sono stati, e voglio ricordarlo, due funzionari dello Stato, cioè uno Enke, che era il responsabile dei servizi del Sismi, e un altro Giannettini, che era uno dei servizi del SID dell'epoca. Quindi gli unici due condannati per la strage di Piazza Fontana sono risultati, per condanne fra l'altro marginali, mai eseguite, mai, Giannettini addirittura espatriato all'epoca, Enke è scomparso dalla scena. Ma comunque, questo è tanto per fare il punto su quello che è stata la nostra, quello che tentiamo di fare con la nostra associazione. Un'altra cosa, voglio parlare appunto ancora di più del libro di Cucchiarelli, perché io a suo tempo querelai Cucchiarelli, purtroppo ho fatto una denuncia querela contro Cucchiarelli e il suo libro. Purtroppo è andata male, perché ha presentato una memoria difensiva, il processo è stato poco tempo fa a Milano, in cui addirittura inventava, naturalmente sempre su quelle carte famose, inventava un test assolutamente inesistente, addirittura componente del nostro gruppo 22 marzo. Ha inventato altre situazioni per cui addirittura io avrei dovuto scusarmi con lui per non essere stato io, come Valpreda, di nuovo messo in prima pagina, insomma sbattuto in prima pagina come mostro, perché addirittura ha pescato delle cose, appunto i due testimoni di cui parlavo prima, lui dimentica totalmente, cancella totalmente il fatto che non è del non riconoscimento da parte dei due testimoni con i quali ho avuto un confronto allo stesso modo di Valpreda, dopo una settimana di celle, dopo 10 giorni di celle di isolamento, un confronto io col sacco che porti in galera perché ti tolgono anche gli abiti alle celle di sicurezza dove stavo, in mezzo a quattro poliziotti con tanto di cravatta e giacca e ben vestiti, io con i capelli dritti, arruffati e col sacco, e viene questo personaggio che era un inserviente della banca che non mi riconosce, che era impossibile non riconoscermi, era assolutamente impossibile. Dopo che gli hanno fatto vedere per 4-5 volte, ci sono dei verbali in questo, e questo è il lavoro che stiamo facendo, ci sono i verbali e c'è carta canta, c'è tutto scritto, in cui hanno mostrato a questo personaggio, come a tutti gli altri testimoni di questo processo, ma dal primo all'ultimo, hanno mostrato sempre e soltanto la loro verità, il loro volere a tutti i costi vederci condannati, vederci incarcerati a vita, perché quello era il rischio, noi rischiamo il carcere a vita. Bene, questi personaggi come Cucchiarelli, che sono soltanto, voglio ricordarlo perché queste non sono, sono soltanto funzionali a una riscrittura storica per la pacificazione democratica di questo Stato, che pesa, come diceva giustamente Fricche prima, come diceva Lello, pesa questa strage. La strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 69 ancora oggi pesa enormemente, perché è lo Stato in prima persona accusato. È accusato perché nella coscienza popolare, nella coscienza che si è comunque passato il discorso che lo Stato c'è dentro, fino al collo, nell'assassinio di Pinelli, nell'assassinio di tutti quanti i compagni che si sono succeduti nel corso degli anni. I cinque anarchici del sud che sono venuti a Roma, massacrati in una strada vicino a Ferentino, qui vicino a Roma, in falso incidente stradale. E i tanti compagni nelle varie manifestazioni che si sono succedute negli anni, tutti i 12 dicembre c'è stata sempre una vittima da parte dei compagni. Quindi il massacro continuo, il tentativo continuo di affossare quella verità che stava venendo fuori e veniva percepita, e la consapevolezza veniva veramente presa in carico da tutti quelli che sentivano parlare. Chi veniva in mente mai che una strage del genere potesse creare una coscienza del genere? Addirittura stava superando in quegli anni quello che era stato il 69 per la presa di coscienza da parte di tutta la gente, dai ragazzi ai lavoratori. Stava veramente. Quindi altre stragi sono succedute e tutto quello che è successo c'è sempre la mano dello Stato. Bisogna ricordarselo questo. Non bisogna parlare soltanto dei fascisti, no, è stato i fascisti, no, i fascisti sono stati la manovalanza, tutto al più, ma la meccanica, il programma, il progetto è statale. Passo la parola a Fricche. Ricordo l'iniziativa di stasera, ringraziando Onda Rossa per l'ospitalità che ci ha dato, come di consueto, che ci seguite a dare. Ricordo l'iniziativa di questa sera organizzata dal gruppo anarchico Carlo Cafiero e dall'associazione Pietro Valpreda, un'iniziativa di un'assemblea dibattito allo spazio anarchico 19 luglio alla Garbatella in via Rocco da Cesinale 18. L'iniziativa partirà alle 20:30, sarà anche possibile mangiare giù da noi, invitiamo i compagni a partecipare. Saranno presenti moltissimi compagni di quelli che sulla propria pelle l'hanno scontata la repressione di quegli anni e compagni che sono stati dal di fuori protagonisti della campagna di controinformazione. Invitiamo i compagni, particolarmente i compagni più giovani, a venire perché avranno modo sia di sentire le vicende dalla viva voce dei protagonisti, sia di fare domande, di raccontare, di capire meglio che cosa è successo. Grazie a tutti e a tutte quelle che ci hanno sentito fino ad ora. Grazie ancora. Ciao, grazie. Ciao.